600. Biscotto. Uova numero 6, zucchero a velo, grammi 250. Farina di grano, grammi 100. Detta di patate, grammi 50. Burro, grammi 30. Odore di scorza di limone. Lavorate per mezz'ora almeno i rossi d'uovo con lo zucchero e una cucchiaiata delle dette farine, servendovi di un mestolo. Montate le chiare ben sode ed aggiungetele. Mescolate adagio e quando saranno immedesimate, fate cadere da un vagliettino le due farine che prima avrete asciugate al sole o al fuoco. Cuocetelo al forno o al forno da campagna in una teglia ove venga alto 3 dita circa, ma prima ungetela col burro di accio e spolverizzatela di zucchero a velo misto a farina. In questi dolci, con le chiare montate, si può anche tenere il seguente metodo, e cioè dimenar prima i rossi d'uovo con lo zucchero, poi gettarvi la farina e dopo una buona lavorazione montar sode le chiare, versarne 2 cucchiaiate per ammorbidire il composto, indi le rimanenti per incorporarvele adagio adagio.